Capitolo secondo. Il sistema etico dell'Islam. La coscienza è un elemento costitutivo della struttura creaturale dell'uomo. Essa è la sede del senso morale, che è l'attributo fisico dell'uomo per mezzo del quale egli è in grado di riconoscere il bene e di identificare il male. Il senso morale che ha sede nella coscienza ha prodotto nella storia dell'uomo il formarsi di un più o meno uniforme giudizio positivo verso certe qualità e certe azioni e un giudizio negativo verso certe altre qualità e certe altre azioni. I modelli del buon comportamento sono generalmente universali e sono sempre stati apprezzati favorevolmente dall'umanità. Bene e male sono realtà ben note a tutti e da tutti comprese, poiché il senso del bene e del male sono cose inerenti alla più profonda natura dell'uomo. Perciò, nella terminologia coranica, il comportamento positivo bene è chiamato ma'ruf, cioè cosa ben nota come bene, mentre il comportamento negativo, il male, è designato con la parola munkar, cosa sconosciuta nell'area del bene.